nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 1 settembre, il sole in regione sorto alle 6.28 e tramonterà alle 19.45. Martedì c'è luna nuova e, diversa tutti gli anni ma tutti gli anni uguale, siete all'ascolto la nuova stagione di Vita nei Campi. Buongiorno da Lillo Montalto Monella e Armando Mucchino. I titoli. In che intorno economico, tra giacenze e variabili dell'export, stanno arrivando le nuove vendemmie? Le vecchie latterie e il mondo che gravitava intorno nella storia di Angelo Floramo. Nuova rubrica sulla storia della meccanizzazione in agricoltura, dove non tutto è stato positivo. E nuovo corso per la rubrica dei sommelier che parte da una carrellata sui vini regionali. La passata di pomodoro, una conserva oltremodo di stagione. Le alternative delle piante perenni per un giardino a bassa manutenzione. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana. Si è tornati in vigna e si è tornato a fare le previsioni di questa vendemmia. Oggi Vita nei Campi vuole però parlarvi delle previsioni e della realtà del mercato dell'uva e del vino in Friuli Venezia Giulia. Lo facciamo con una vecchia conoscenza di Vita nei Campi, Marco Malison, responsabile tecnico economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. Partiamo subito dalle giacenze che ci sono nelle cantine. Sì, diciamo che esaminando i report che vengono pubblicati dal cosiddetto Vigneto Italia, anzi Cantina Italia della repressione frodi, noi vediamo che rispetto all'anno scorso abbiamo un leggero calo delle giacenze. Stiamo parlando ai primi di luglio di qualcosa come 43 milioni di ettolitri a livello nazionale. Però se noi pensiamo che la vendemmia dell'anno scorso è stata in assoluto la più scarsa degli ultimi 100 anni, in rapporto, ecco, dobbiamo dire che le giacenze sono aumentate e quindi ci portiamo dietro questa zavorra, chiamiamola così, fin dal periodo del Covid, che continua a deprimere i prezzi dello sfuso e a cascata anche i prezzi delle uve, tant'è vero che vediamo in questi giorni che nonostante le prime avvisaglie, no, delle raccolte che sono cominciate in campo, la quantità è piuttosto scarsa, il prezzo delle uve è sostanzialmente fermo rispetto a quello che c'era l'anno scorso. E questo è un segnale, insomma, di disequilibrio del mercato, di un problema strutturale di eccesso di produzione e verosimilmente anche di un eccesso di superficie. Non è un problema solo italiano, sappiamo per esempio che in Francia hanno messo in atto un programma di estirpi, soprattutto nella zona di Bordeaux, si parla di qualcosa come 9.000 ettari. Ecco, per noi estirpare diventa un problema di alternativa economica perché tutto sommato a livello di agricoltura la vigna rende ancora di più di molte altre colture. Passiamo alla voce consumi, consumi interni, export, e quest'anno si parla anche di cifre abbastanza ragguardevoli di import. Sì, diciamo che la nota più dolente, guardando i dati rispetto al 2023, è che i consumi interni si sono ridotti qualcosa come 4 milioni di ettolitri su base nazionale. L'export continua a tirare tutto sommato, ma certo non come gli anni precedenti. Si sente la problematica, diciamo, internazionale legata ai conflitti in corso, pesa l'inflazione degli ultimi anni, la riduzione del potere d'acquisto e per esempio anche, diciamo, una situazione di stagnazione economica come quella che si sta verificando in Germania, che tradizionalmente è uno dei paesi che accoglie molta della nostra produzione enologica, perlomeno del nord-est italiano. In conclusione, continua il diluvio, mi passi il termine, del Prosecco e il caso Ribolla. Ma il Prosecco continua tutto sommato ad andare bene, anche se diciamo le crescite non sono certo paragonabili a quelli degli ultimi anni. Per quanto riguarda la Ribolla, ecco, noi vediamo che gli impianti sono molto più ridotti rispetto agli anni passati, meriterebbe comunque una tutela maggiore a livello regionale per riuscire a dargli una valorizzazione e un prezzo che merita. È vero che arriva tanto vino dalla Spagna? Sì, nell'ultimo anno si parla di circa 1 milione di ettolitri, che è comunque una cifra ragguardevole. Fino a pochi anni fa, stiamo parlando della seconda metà del Novecento, ce n'era una per campanile. Hanno segnato la svolta dell'economia agraria in Friuli Venezia Giulia, rappresentando nel contempo uno status della vita nei campi. Stiamo parlando delle latterie sociali turnarie. Ci racconta tutto oggi Angelo Floramo. Il profumo del latte appena munto, che ribolle dentro agli enormi pentoloni di rame, il pavimento in coccio perennemente umido e l'aria densa, capace di attutire le voci, in nuvole di vapore caldo e odoroso, che rendeva l'ambiente torrido sia in estate che in inverno. La latteria turnaria era uno spazio di incontro privilegiato, libero, quasi anarchico, specialmente per i bambini che ci andavano su commissione, finalmente lontani dal controllo dei genitori. Bastava entrarci per sentirsi un po' più grandi, affrancati dalle regole della famiglia e soprattutto investiti di un ruolo. Ci si arrivava in bicicletta ed era già un lusso. I piccoli pedalavano sotto canna, cercando di mantenersi in precario equilibrio, storti tra parifanghi arrugginiti e catene ingrassate, a tal punto da lasciare una traccia di smir, di oliaccio denso, sui polpacci nudi, sotto le braghe corte. I ragazzotti più grandi se ne stavano fuori, appollaiati come uno stormo di corvi sui muretti o i davanzali delle basse finestre, con una smorfia pitturata in faccia e l'aria dannata, un po' alla James Dean. Corteggiavano le ragazze che venivano direttamente dalla stalla, tutte gonne sotto il ginocchio e calzetti bianchi, con la raine di stagno appesa al manubrio, il bussolotto, perennemente ammaccato, che al ritorno imbastiva un'orchestra chiassosa di ferraglie assortite. Un richiamo d'amore, inequivocabile, per chi avesse avuto il coraggio di inseguirle, tentando un timido approccio, generalmente destinato a cadere nel nulla. I vecchi, invece, si sedevano su qualche scagnetto appena fuori dai locali. I discorsi variavano a seconda della stagione: le promesse dell'orto, il seminato, il sensale, l'imbottigliamento del vino, l'acquisto di una vitella. Si godevano una mezza cicca in santa pace, benedicendo la generosità di chi, assieme al latte, aveva portato anche il bottiglione di bacò per celebrare una mezz'ora di libertà dalla parone, che attendeva a casa con gli occhi ben piantati sulla sveglia per rinfacciare a quello strassagiorni del marito il tempo perduto, intanto sbrigava le ultime incombenze della giornata. Il casaro, che pareva enorme, fasciato dal grembiule di cuoio sugli zoccoli di legno, regalava ai più piccoli gli scrodis, le strisce buonissime che avanzavano dal ritaglio della forma di formaggio. Avevano un sapore gommoso, intenso, di latte. Dovevano durare tutta la via del ritorno, che si allungava a dismisura. Il ritardo, inevitabile, non sarebbe stato perdonato. Inizia oggi a Vita nei Campi una nuova rubrica che, semplificando, potremmo chiamare Dalla zappa ai robot nei campi. Lo facciamo con l'agronomo di Sesta Regana, Stefano Bortolussi, che ci traccerà, almeno in questa prima puntata, quali sono stati i cambiamenti epocali su questo versante dell'agricoltura. Tema conduttore di queste puntate che terrò per la rubrica sarà di illustrare un po' quello che è successo sia nella nostra regione sia in un ambito più ampio, i cambiamenti tecnologici che si sono successi sia a partire dall'antichità, ma concentrandoci su quello che è successo soprattutto nel secondo dopoguerra, con cambiamenti epocali, appunto, con una riduzione notevole della manodopera impiegata in agricoltura e con un aumento via via sempre più veloce della potenza meccanica impiegata nei nostri campi. Cambiamenti nel bene, ma anche nel male, purtroppo. Sicuramente, come tutti i cambiamenti, hanno dei pro e dei contro. Sicuramente è aumentata la comodità di eseguire le operazioni nei campi, quindi minor fatica fisica, ma sono aumentati anche i danni, appunto, meccanici, perché il terreno è rimasto sempre quello e la sua capacità di sopportazione nel tempo non è cambiata e l'intensità con cui effettuiamo le nostre operazioni ha delle controindicazioni proprio su questo, sulla sua capacità di sopportarci, tra virgolette. Una volta avevamo i cavalli in carne ed ossa, adesso ci sono quelli meccanici. Sì, è aumentata notevolmente, magari nella corso di una successiva puntata proveremo a dare qualche numero dell'impiego, del numero sia di persone sia di animali impiegati, ad esempio, nelle nostre terre nel corso della storia più recente. Adesso è aumentata probabilmente in maniera sproporzionata la quantità di cavalli meccanici che abbiamo impiegati nei nostri campi e ci ritroviamo ad avere un numero, una potenza di cavalli meccanici di molto superiore, ad esempio, a quella necessaria per coltivare il Nord America a parità di superficie. Con Vladimiro Tulisso parte una nuova stagione a vita nei campi dei racconti dei sommelier. Prima di partire per una carrellata sui principali vini del Friuli Venezia Giulia, vuole aggiungere una serie di notazioni metodologiche alla sua rubrica. Oggi inizia la terza stagione di collaborazione tra Vita nei Campi e l'Associazione Italiana Sommelier. Quest'anno la volontà dell'AIS è di incuriosire quella parte di pubblico che beve, degusta, ma rinunciando a comprendere cosa abbia nel bicchiere, non venendone né coinvolto né affascinato. Inizieremo pertanto un percorso sul vino e sulle altre bevande, come facciamo dal 2022, ma aggiungendo anche la degustazione. Farlo alla radio non è semplice, chi ci ascolta non potrà purtroppo condividere le esperienze che si provano guardando, annusando e bevendo un vino, ma cercherò di trasmettere con le parole le sensazioni sul prodotto che avrò nel calice. Semplificherò il linguaggio tecnico dei sommelier così che la descrizione possa diventare comprensibile a un pubblico più vasto. Del vino verrà comunicato il nome del vitigno o dei vitigni che lo compongono, la zona di produzione, l'annata, il grado alcolico. Sarà un modo perché la degustazione possa anche diventare un viaggio nelle diverse aree viticole della nostra regione con le tipiche caratteristiche legate al microclima, alla tecnica di allevamento della vite e produzione del vino, anche a una possibile tradizione locale. Per ogni vino suggerirò anche dei possibili abbinamenti con il cibo, perché sposare una preparazione gastronomica con il vino adeguato è un ottimo modo per valorizzare entrambi. Anticipo che la prossima volta che ci ascolteremo inizieremo degustando una ribolla gialla nella versione ferma. Mi rendo conto che l'esperienza sarà un esperimento ed è per questo che chiediamo la collaborazione dei tanti che ogni domenica mattina ci ascoltano per farci avere delle valutazioni. Vita nei Campi ha una pagina Facebook molto seguita sulla quale è possibile lasciare dei commenti. Li leggeremo volentieri. Per la rubrica della conservazione, oggi un classico stagionale, la passata di pomodoro. Ci dice tutto Michele Urbano. Era il 1883, quando l'importatore John Nix sbarcò nel porto di New York con un carico di pomodori proveniente dalle Indie Occidentali. Qui si scontrò con un funzionario che pretendeva il pagamento del dazio doganale all'importazione sulle verdure straniere. Nix, che conosceva la botanica, si oppose, perché il pomodoro è un frutto, pertanto quel 10% di tasse non lo riteneva applicabile. 3 anni dopo la disputa si concluse alla Corte Suprema, dove un giudice sentenziò che botanicamente parlando i pomodori sono dei frutti, ma nell'uso popolare vengono utilizzati come verdure e pertanto la tassa andava applicata. La questione se il pomodoro è da considerarsi un frutto oppure un vegetale è ancora attuale. Pertanto aspettatevi risposte differenti se l'interlocutore è un botanico oppure un nutrizionista o chef. Su questa disputa passo il pomo agli esperti della redazione, che di certo ne sanno più di me, in merito alla classificazione delle verdure, ortaggi o frutti che dir si voglia. Io mi appello al saggio Artusi, il quale, per sottolineare come i pomodori entrino per tutto, raccontava una divertente storiella di un parco in piccione che soleva metter naso a fin di bene in ogni faccenda e per questo venne soprannominato Don Pomodoro. Questo è il periodo migliore per utilizzare i pomodori da salsa. Le qualità da preferire sono il San Marzano, il Roma e l'Adamo, perché hanno una polpa carnosa e asciutta, pochi semi e aromi intensi. Acquistateli o raccoglieteli al giusto punto di maturazione, controllando che siano integri e privi di muffe. Quando possibile, utilizzate preferibilmente pomodori che siano stati conservati in frigorifero, perché è dimostrato che il trattamento termico protratto deteriora l'enzima che ne determina il profumo. Si tenga presente che da un chilo di pomodori si ottengono circa 500 grammi di passata. Pertanto, organizzatevi con la giusta quantità di vasi e bottiglie necessarie. Raggiunta la densità voluta, invasate a caldo, lasciando circa un centimetro al bordo del contenitore e tappate velocemente. Ora procedete con la pastorizzazione, immergendo i vasetti in una pentola capiente con dell'acqua alla stessa temperatura della passata. Fate bollire per 40 minuti circa. Verificate la tenuta della capsula, etichettateli con la data di produzione e conservateli per un anno in un luogo fresco e buio. Ottime per i giardini a bassa manutenzione, stiamo parlando delle piante perenni, che ci compendia Alessandro Squizzato. Siamo quasi alla fine dell'estate, in un momento in cui il caldo sembra non mollare la presa e magari a causa delle nostre ferie o alte temperature, qualche pianta del nostro balcone, terrazzo o angolo verde non ha retto e ci ha lasciato. Non sappiamo cosa fare, lasciare lo spazio vuoto in attesa di climi più freschi o rimpiazzare i buchi con altre piante per rallegrare la situazione? Ma cosa possiamo mettere che duri e non si rovini? Abbiamo la soluzione, le piante perenni, che ci vengono in soccorso in questo periodo. Queste, di varie specie e genere, sono delle colture che possono abbellire i nostri angoli verdi per svariati mesi e anni. Resistono ottimamente sia al sole che all'ombra, alle piogge battenti autunnali o al gelo invernale. Insomma, sono delle essenze che per le loro caratteristiche ci soddisferanno per lungo tempo, fino a farci stufare per la loro lunga vita. Possiamo sbizzarrirci a creare composizioni e combinazioni di vario tipo, in quanto molte di loro sono adatte a vivere assieme nello stesso vaso. Pensiamo ad esempio al calocefalo, piccolo cespuglietto, dalla crescita lenta, dal colore argento, in combinazione con il verde scuro delle foglioline della Muhlenbeckia, pianta erbacea perenne originaria della Nuova Zelanda. Quest'ultima è estremamente versatile, in quanto può essere utilizzata sia come ricadente che come rampicante. Altre colture perenni, di cui abbiamo trattato in Vita nei Campi negli scorsi anni, sono le euchere, che con le loro foglie colorate, dal giallo al rosso al nero, al caffè latte, al viola, riescono a decorare anche le zone del giardino più tristi e spoglie, dove spesso altre piante non riescono a dare alcun effetto scenografico. Non dimentichiamoci delle piante graminacee ornamentali. Sono robuste perenni, ottime in giardino e in terrazzo, per dare volume e leggerezza a qualsiasi aiuola o composizione. Le possiamo scegliere basse, ad esempio potrebbe essere il carex, oppure alte come un penisetum, di cui possiamo trovare della varietà alte sino a 2 metri. Contrariamente a quanto possiamo pensare, queste piante erbacee non sono invadenti e basteranno solamente poche cure per averle sempre splendide. Non per nulla sono molto indicate nei giardini a bassa manutenzione. Altre piante perenni con cui potete sbizzarrirvi sono i sedum, piante similgrasse da esterno, i garofani con i loro colori vivaci, la yuga con le sue foglie scure o variegate, la lisimacchia, pianta estremamente ricadenti con foglioline verdi brillanti. Vi ho fatto solamente alcuni esempi di piante perenni più comuni, ma sono sicuro che dal vostro rivenditore di fiducia ne troverete molte, per divertirvi con la fantasia e creare svariati abbinamenti di colori. E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli nel Friuli Venezia Giulia. Riprendiamo i mercati dopo la pausa estiva del mese di agosto con le contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove venerdì scorso ha avuto un mercato poco attivo con prezzi cedenti e il mais con umidità 14% è stato quotato tra 21 e 20 euro il quintale IVA esclusa, il frumento tra 19,50 e 20 euro e l'orzo tra 17,30 e 17,80. Discreta l'attività all'ortofrutticolo di Udine con prezzi però riflessivi. L'insalata gentile e la lattuga Trocadero sono quotate da 2,80 a 3 euro il chilo IVA esclusa, i finocchi da 2,20 a 3 euro, le zucchine da 1,50 a 2 euro, i cavoli da 2,40 a 2,50, i peperoni gialli e rossi da 2,50 a 3 euro, i pomodori in grappolo da 1,60 a 2,20, aumenti da liquido rosso tondo da 2,60 a 2,80, quello di Treviso precoce da 3,60 a 3,80, i meloni da 1,50 a 2,80, l'anguria da 0,50 a 1 euro, le pesche e pesche noci da 1,80 a 2,80, le susine da 1,20 a 1,60 e l'uva da 2 a 3 euro al chilo. L'attività della pesca in questo periodo si svolge solo sulla costa e laguna ed è proficua, con prezzi diversificati. Alla cooperativa pescatori San Vito di Merano Agunare, i branzini suddivisi in piccoli, medi e grandi sono quotati da 16 a 32 euro al chilo IVA esclusa, le orate da 6 a 22, le sogliole da 13 a 30, i latterini da 10 a 12, le mazzancolle di laguna da 20 a 22 e le scarpene da 5 a 10 euro al chilo. Nel comparto caseario, la commissione camerale di Pordenone e Udine recentemente ha determinato il nuovo prezzo del latte crudo di vacca di origine del Friuli Venezia Giulia, quotandolo tra 51 e 54 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Ha inoltre valutato il montaggio di 90 giorni fresco da 8,80 a 9 euro il chilo IVA esclusa, quello di 4-6 mesi stagionato da 9,90 a 10 euro, lo stagionato 12-15 mesi da 10,20 a 10,40 con marchio di qualità da 11,20 a 11,40. Nell'ambito dei foraggi, per scarsa richiesta di prodotti, l'erba medica di prima qualità viene quotata da 10 a 10,50 euro il quintale IVA esclusa. Il fieno mazzengo di pianura si paga tra 6 e 7,50. I cereali pressati si quotano tra 6,50 e 8 euro il quintale. Infine, prezzi in leggero aumento nel comparto degli avicunicoli. Il valore dei poliatera oscilla da 1,34 a 1,38 euro il chilo IVA esclusa. Le anatre da 3,05 a 3,15, i tacchini maschi da 1,68 a 1,70 e le uova oltre i 73 grammi provenienti da alimenti a terra sono a 20 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA, Francesco Sioni, diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante. Ci eravamo lasciati un mese fa, concludendo che luglio era stato tra i mesi più caldi in assoluto per la nostra regione. E ci ritroviamo oggi a dire la stessa cosa di agosto. Ne consegue che un periodo di due mesi consecutivi così caldi e con temperatura media in pianura sui 26 gradi non ha precedenti in Friuli Venezia Giulia. Come non ha precedenti la temperatura media mensile del mare a Trieste, che con quasi 28 gradi batte anche l'agosto del 2003. E ciò che è più eclatante è che il primato non viene conquistato per pochi decimi, ma per quasi un grado e mezzo in più. Un dato sbalorditivo, e questo record non è relegato solo al nostro Alto Adriatico, ma appartiene anche all'intero Mediterraneo. Possiamo quindi, dati alla mano, dire che molto probabilmente ci troviamo di fronte a un cambio di passo epocale per quanto riguarda l'ambito meteoclimatico. Passando alle previsioni, il 1 settembre è la data convenzionale dell'inizio dell'autunno meteorologico. Eppure, la settimana che andrà a cominciare non avrà probabilmente nessuna caratteristica autunnale, ma anzi, sarà ancora pienamente estiva. La situazione infatti su pianura e costa sarà ancora prevalentemente stabile, con cielo in genere sereno o poco nuvoloso. Per quanto riguarda la zona montana, invece, con il riscaldamento da parte del sole nelle ore centrali della giornata, ogni pomeriggio sarà sempre possibile lo sviluppo di qualche rovescio sparso o qualche temporale. Per quanto riguarda le temperature, invece, rimarremo ben al di sopra della norma del periodo. Le massime, lunedì fino a mercoledì in pianura, dovrebbero risultare tra i 31 e i 34 gradi, non escludendo localmente anche i 35 gradi, valore mai misurato finora sulla pianura friulana nel mese di settembre. Mentre sulla pianura potremo contare su una forte escursione termica giornaliera e il calo delle minime notturne, sulla costa le temperature potrebbero rimanere alte anche in serata. Oltretutto, giovedì il richiamo da sud in quota di aria dal Mediterraneo continuerà a mantenere alte le temperature. Insomma, per ora non sembra che la settimana entrante vedrà marcati cali di temperatura, e nemmeno l'arrivo di una depressione che possa portare a piogge diffuse sulla regione. Questa è quindi la tendenza per la settimana, ma in ogni caso raccomandiamo di seguire costantemente l'aggiornamento delle previsioni sulla RAI regionale, sul nostro sito web e sui principali social media. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. Ploe dimis di, ploe dutil di, ovvero se piove a mezzogiorno, piove tutto il giorno. Coordinamento tecnico di Marco Rasi, il nostro indirizzo mail vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Lillo Montalto Monelle e Armando Mucchino, assieme a tutta la redazione, vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato?